sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 febbraio, il sole in regione sorto alle 7.01 e tramonterà alle 17.42. Sabato ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Miccoli. Lo chiamano mestiere, ma quella del norcino è anche un'arte che affonda le radici nella tradizione, un'arte che si temeva potesse soccombere di fronte alla pandemia e alla possibile contrazione della macellazione domestica. Non è così, anzi sempre più giovani chiedono di imparare. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare ai temi della transizione ecologica, tanto in voga in questi giorni, introducendo il dibattito necessario anche in maniera di transizione agroecologica. I coloranti e il colore del vino sono poi al centro della serie dedicata a questo prodotto, mentre nella rubrica dell'orticoltura avremo una serie di consigli per la scelta ottimale dei substrati. Di Brovadar, parente stretto della Brovada friulana, e di gnocchi di zucca si occuperanno gli spazi che dedichiamo ai prodotti tipici e alla gastronomia. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Forse non tutti sanno che al Museo della Civiltà Contadina Chiase Coccelle di Fagagna esiste l'Albo dei Norcini, un albo per chi fa questo mestiere, un mestiere che affonda le sue radici nella storia e ha ben sue determinate prassi e teorie. Un albo che tutti temevano potesse quest'anno andare almeno sparire, vista la pandemia e la riluttanza di fare la macellazione domestica del maiale. Così a quanto pare non è successo. Ne parliamo con Gianluigi Dorlandi, cultore e appassionato della materia, uno dei motori della festa del norcino che a Chiase Coccelle si faceva ogni anno per la festa di Sant'Antonio Abate. Come sta andando la macellazione e soprattutto come sta andando il mestiere del norcino? Ma eravamo preoccupati che il Covid avesse rallentato, messo in difficoltà le famiglie nel macellare i maiali e siamo stati costretti quest'anno come museo a non fare la festa del norcino a causa di tutte le limitazioni nella possibilità di incontrare le persone e quindi eravamo preoccupati che anche le macellazioni casalinghe avessero avuto delle difficoltà. E grazie al fatto che l'azienda sanitaria ci ha dato una serie di dati, non solo del 2020 ma anche del confronto con il 2019, ci siamo resi conto che la diminuzione è stata ben poca nelle macellazioni casalinghe e quindi vuol dire che la tradizione ha saputo resistere perfino alla pandemia. È una cosa che lega le famiglie, è un mestiere, questo del norcino, che non pensavamo fosse così diffuso. Già quando abbiamo iniziato a fare i primi convegni ci siamo resi conto che moltissime persone hanno piacere di praticare questo glorioso mestiere e ci siamo resi conto che soprattutto hanno la passione di approfondire anche le questioni tecniche legate alla macellazione, hanno piacere di imparare dai tecnici che abbiamo messo a disposizione le tecniche migliori per produrre ma anche per conservare i prodotti della norcineria e quindi siamo convinti che l'arte norcina sia assolutamente in buona salute e soprattutto le famiglie continuano in questa tradizione. Un'arte quindi che non rischia di andar persa, ma come sta cambiando il mestiere? Chi sono i nuovi norcini tra le centinaia di persone che sono iscritte al vostro albo? Ma abbiamo visto che molti giovani chiedono di poter frequentare i corsi organizzati dal Museo di Chiese Coccelle e molte persone anche che hanno agriturismi, che hanno aziende agricole si avvicinano all'arte norcina proprio per mettere a disposizione dei cittadini prodotti genuini, prodotti della tradizione, prodotti che non sempre l'industria è in grado di fare nella stessa maniera. Ecco, i prodotti, c'è una ricerca a ritornare a fare delle cose che negli ultimi anni forse erano state un po' abbandonate. Cito una per tutti, le palmone. Ma diciamo che proprio il fatto di valorizzare certe tipologie di prodotti che non si trovano in commercio dà al Norcino una marcia in più. Riuscire a fare prodotti della tradizione antica, il pestat, le polmone, le marcundelle, diventa un vanto per il Norcino di riuscire a dare alla famiglia dei prodotti che altrimenti in commercio non si trovano. Cristina Micheloni, commentando il gran parlare riguardo la transizione ecologica che anima la politica italiana in questi giorni, introduce il dibattito in merito alla transizione agroecologica che dovrebbe essere integrata nel dibattito. Leggiamo con piacere che con il nuovo governo ci sarà un impegno verso la transizione ecologica e anche uno verso la transizione digitale. Poi però non trovo nulla sulla transizione agroecologica, che avrebbe dovuto connotare ciò che tuttora si chiama Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Credo infatti che la transizione debba essere una sola e assolutamente ecologica, termine però ben più complesso e sfaccettato in cui ricade la mobilità e la decisione di costruire strade piuttosto che ferrovie o piste ciclabili. Ricadono le scelte industriali, quelle energetiche, quelle sulla gestione della salute e del benessere delle persone e delle comunità, fino ad arrivare a quelle agricole, che comunque sono anche industriali, energetiche, di salute e benessere. Soprattutto in questo momento in cui è la Commissione europea a proporci di essere parte attiva nella transizione agroecologica tratteggiata nella strategia Farm to Fork, i cui ambiziosi ma necessari obiettivi hanno già subito un pesante tentativo di annacquamento da parte del Parlamento europeo, con ruolo da protagonista delle compagine politica nazionale e coro plaudente dei cosiddetti portatori di interesse. Ma anche la transizione digitale di per sé non mi pare un valore se non è strumentale alla finalità che abbiamo sopra descritto, ovvero rendere più facilmente raggiungibili gli obiettivi ecologici globali e, nello specifico, per quanto ci riguarda, quelli agroecologici. Anche qui, per alcuni, suonerà sorprendente, ma la realtà è più avanzata di ciò che la politica immagina e troppo spesso gli agricoltori, bio e non, debbono perdere tempo prezioso nell'interfacciarsi con enti pubblici che invece sono piuttosto maldestri in termini di digitalizzazione. Un esempio: dopo 3 anni di complicata gestazione è stato pubblicato a inizio anno il bando per i progetti di ricerca per il biologico, eppure in epoca pre-digital il MIPAF emetteva un bando all'anno. Questo ci ha messo 3 anni e non era questione di mancanza di fondi. Il bando richiede la consegna dei progetti in forma cartacea e con firma in originale, accompagnata da, udite udite, un DVD con i file in PDF e in Word. A parte che chi ce l'ha più un PC che legge i DVD, ma non esiste la PEC o la firma digitale? Ogni agricoltore è obbligato a dotarsi di PEC da alcuni anni, il Ministero no? Un portale per il caricamento dei progetti ormai in dotazione ad ogni regione. Possibile che non ve ne sia uno per il Ministero? Niente polemiche, ma guardiamo avanti. I cittadini sono pronti, buona parte degli agricoltori anche, gli strumenti digitali non ci sono. Quello che manca è la convinzione da parte di alcuni politici che si può fare. In Italia abbiamo già il 15% di SAU in bio, possiamo farcela raggiungere e anche superare il 25% al 2030, che è uno degli obiettivi del Farm to Fork. Possiamo farcela anche a dimezzare fitofarmaci dannosi, antimicrobici e fertilizzanti, e non moriremo nemmeno di fame. Infatti si può benissimo sfamare il mondo con l'agricoltura bio e le tecniche agroecologiche, ma la strategia si chiama Farm to Fork perché deve coinvolgere tutti, anche quelli che tengono in mano la forchetta. Che significa? Che si può produrre abbastanza cibo per tutti, oggi e nei decenni a venire, senza aumentare le terre coltivate, senza gli OGM vecchi e nuovi, ed anche senza l'eccesso di chimica di sintesi, a patto che si sostenga la conoscenza, anche quella degli agricoltori, si riducano gli sprechi e si rivedano le abitudini alimentari, riducendo la presenza di prodotti zootecnici. Serve una strategia che coinvolga tutti, appunto, e una sola transizione ecologica che riconosca all'agroalimentare il ruolo che gli pertiene. Importantissima, soprattutto prima della degustazione, l'analisi del colore di un vino. Oggi il professor Roberto Zironi, per la rubrica del vino e dell'uva, ci parla di coloranti ed enologia. Quando noi osserviamo un grappolo d'uva, un vino, la prima valutazione sensoriale riguarda il colore. Se poi analizziamo da vicino un acino d'uva, notiamo come il colore sia concentrato nella buccia, mentre la polpa ha una colorazione molto più tenue, verde giallognola. I coloranti delle uve, sia bianche che rosse, appartengono ad una classe molto varia di sostanze diffuse nel regno vegetale che vanno genericamente sotto il nome di fenoli. Fenolo è anche una struttura chimica semplice che ritroviamo nell'acino d'uva, nella polpa, sotto il nome di acidi fenolici, o può assumere strutture più complesse, addirittura polimeriche, che vanno sotto il nome di polifenoli e che troviamo localizzati nelle cellule della buccia. Ma perché queste sostanze presentano una colorazione? Perché la buccia presenta una colorazione? Perché queste sostanze polifenoliche possono, se colpite da una radiazione luminosa policromatica, assorbire una radiazione complementare a quella del colore con cui si manifestano, riflettere le altre e quindi assumere delle colorazioni che sono rosse nel caso delle uve a bacca rossa, gialle nel caso delle uve a bacca gialla. Le molecole responsabili della colorazione rossa vanno sotto il nome di antociani, mentre le molecole responsabili della colorazione nelle uve a bacca bianca vanno sotto il nome di proantocianidine polimere. Queste ultime sostanze sono presenti anche nelle uve a bacca rossa, ma da un punto di vista della colorazione complessiva sono mascherate dalla prevalenza della colorazione rossa. Quindi se noi vogliamo ottenere un vino rosso, dovremo partire da uve a bacca rossa e far estrarre dai succhi della polpa la componente colorante antocianica presente nelle bucce. Nella produzione dei vini bianchi, comunemente questa macerazione non avviene. Utilizziamo soltanto i succhi della polpa e quindi avremo un vino di colore più pallido. Esiste poi un'ultima categoria, postasi all'attenzione negli ultimi anni, specialmente in alcune zone del Collio e del Carso, dove dalla vinificazione in rosso di uve Ribolla, Malvasia Istriana, Vitosca, piuttosto che Tokai o Pino Grigio, si ottengono i vini chiamati Orange. Sara Bosco nella scorsa puntata aveva analizzato ruoli e composizione dei substrati per l'orticoltura. Oggi ci dà una serie di consigli per la loro scelta ottimale. Come prima cosa va considerato che il substrato, nel caso delle piante in vaso o in semenzaio, rappresenta un sistema limitato e chiuso, mentre la terra del nostro orto o giardino è in continua evoluzione con molte fonti di vita. Perciò è molto importante verificare la presenza nel substrato di altri elementi, come concimi e microrganismi. È preferibile che il terriccio utilizzato contenga già questi componenti in modo da essere già completo per la via della coltivazione. Un altro fattore importante da considerare è la tessitura del terriccio. Questa sarà più grossa nel caso di piante da fiore o colture con semi grandi, mentre nel caso di semi nudi piccoli, come quelli del radicchio o della lattuga, la tessitura deve essere fine. Questo fattore influenza la capacità di aria e acqua del substrato, andando direttamente a incidere sulla germinazione di semi e sullo sviluppo delle plantule. Un aspetto più particolare è il pH. Questo viene considerato nel caso si coltivino colture che richiedono dei valori di pH specifici, come nel caso di piante acidofile che necessitano perciò che il substrato impiegato per il loro allevamento abbia un pH acido. Il pH inoltre incide direttamente sulla disponibilità di alimenti nutritivi per le piante. Nel caso di piante che posseggono radici aeree, il corretto substrato dovrebbe essere leggero e soffice, in grado di garantire un adeguato drenaggio e aerazione delle radici. Per piante con radici interrate, il terreno invece dovrebbe conservare nel tempo una buona percentuale di umidità. Miscelando al nostro terreno sabbia, corteccia, argilla e espansa, otteniamo un ottimo drenaggio, mentre aggiungendo torbe e vermiculite abbiamo una maggior conservazione di umidità. Per concludere è necessario, durante l'allevamento delle plantule, non sottoporre il substrato a forti stress, ad esempio dissicazione, in quanto si potrebbero perdere parzialmente le sue potenzialità. Conoscendo i componenti di base e le caratteristiche da considerare durante l'acquisto, si è più consapevoli del substrato adatto. Terza puntata con Adriano Del Fabbro per parlare di Brovada, principessa dei prodotti tipici friulani, che ha anche un parente più che tipico nell'area montana della regione, il Brovadar. Il Brovadar è una preparazione invernale tradizionale della montagna friulana a base di piccole rape locali, foglie comprese. Si consiglia infatti di raccogliere rape subito dopo le prime brinate che le rendono più croccanti. Secondo Guido Pugnetti, autore del libro Il Brovadar, le rape sono arrivate in Carnia, la preparazione del Brovadar è una tradizione ancora ben viva a Moso Udinese, e in Friuli con i Celti, circa 500 anni prima di Cristo, come pure la tecnica della fermentazione lattica per la loro conservazione. Nel De Re Coquinaria, attribuito al famoso gastronomo romano Marco Gavio Apicio del IV secolo d.C., si descrive il metodo di conservazione delle rape sia per mezzo della fermentazione acetica, brovada, che lattica, il brovadar. Valentino Osterman, nel suo libro La vita in Friuli del 1894, parla del brovadin, che diversamente dal brovadar vedrebbe le rape e relative foglie fermentare all'aria aperta. Secondo la testimonianza della contessa Gemma di Caporiacco Nais, riportata nel Mangiar Friulano di Giuseppina Perusini Antonini, pubblicato nel 1962, l'ortaggio completo si fa passare per pochi minuti in una caldaia di acqua bollente e poi si lascia raffreddare. Quindi le rape si mettono in un mastello o da altro recipiente di legno al cui fondo si adagiano delle foglie di verza. Si pressano con le mani, si coprono con uno strato di foglie di verza e sopra si mette un peso, dopo averle coperte d'acqua. In carnia la vinaccia è materia non disponibile e anche il sale si aggiunge, a volte anche semi di cumino, finocchio selvatico e fette di mela. Si lasciano fermentare per un mese abbondante, dopodiché si consumano verso Natale, soprattutto sotto forma di minestra. Per la ricetta si pesta il brovadar, formando un battuto. Si fanno cuocere i fagioli e quando questi sono pronti si aggiunge il brovadar e il tutto si fa bollire per almeno un'ora, preferibilmente assieme a carne, ossa o cotene di maiale. Nella Valcellina il fermentato prende il nome di pestit o pistit, come racconta Giosuè Caradia nel 2012 su Tiere Furlane. La valutazione della ricetta del prodotto tipico sono state affidate all'ente parco delle Prealpi Giulia e al cluster agroalimentare Agrifood di Coloredo di Monte Albano. Curiosamente la rapa è presente nel gonfalone del comune di Ovaro. Nel 2013 infine la rapa di Verzegni si è stata inserita nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Una delle protagoniste dell'orto, ma soprattutto della cucina, è la zucca, che si presta a tantissime ricette. Oggi Roberto Zottar ce ne parla, subspecie degli gnocchi. Siamo ancora fortunatamente in zona arancione e non mi riferisco alla pandemia, ma alla disponibilità di zucca al mercato. Conosciuta dai popoli più antichi, tra cui gli Egizi, i Romani, gli Arabi e i Greci, la zucca ha da sempre stimolato la fantasia dell'uomo, tanto da essere protagonista sia di molte favole sia intagliata della festa di Halloween. Come la conosciamo oggi ci è arrivata però con la scoperta dell'America, anche se le origini sono ancora contese tra Messico ed Asia meridionale. Dioscoride e Plinio la definirono refrigerio della vita umana e balsamo dei guai. Il termine zucca deriva dal latino cocuzia, cioè testa, che passando alla lingua volgare diventò cocuzza ed infine zucca. È un frutto che si presta a essere cucinato fritto, al forno, al vapore, nel risotto, in pasticcio, nelle minestre o come ingrediente per dolci. Famosi sono i tortelli alla mantovana, ripieni dell'omonima varietà di zucca e di amaretti, e nel Veneto è molto gustosa la zucca in savor, ottenuta cucinando le fette in padella e marinandole poi con cipolle stufate, aceto, uvette e pinoli. È chiamata anche il maiale dei poveri, perché, oltre che alimento per quest'ultimi, di essa non si butta via niente. Dai semi crudi si può estrarre olio, mentre quelli essiccati si utilizzano per ottime insalate o snack. I fiori sono buoni fritti e la buccia, svuotata dalla polpa ed asciugata, può diventare un contenitore o addirittura uno strumento musicale come le maracas americane. Oggi vi voglio parlare però di gnocchi, o meglio macarons di coce, come li chiamava Cosetti, e Piero Adami ricordava che i macarons richiedono un lac di ont za cucinat, cioè vanno conditi con un lago di burro cotto. I gnocchi di cavoce, per il dolciastro della zucca, ben si sposano con il sapore affumicato, tanto che la tradizione li vuole conditi, oltre che con l'ont, con la schiette fumade, la ricotta affumicata. Lucia Pertoldi, con la sua geniale sensibilità gastronomica, ha innovato il piatto affumicando direttamente gli gnocchi. Per realizzarli mettete in una terina 1 chilogrammo di zucca mondata già cotta in forno e passata al passaverdura a buchi grossi. Mescolando con un cucchiaio, impastatevi 1 uovo intero, 2 etti di farina di semola rimacinata e 1 cucchiaio di parmigiano, 1 cucchiaino di paprika dolce affumicata, sale e pepe e, volendo, 1 cucchiaino di aglio orsino secco. Con 2 cucchiaini preparate degli gnocchetti che verserete in abbondante acqua bollente salata. Sono pronti dopo un paio di minuti da quando vengono a galla. Conditeli a piacere con burro, altra paprika affumicata e parmigiano. Buon appetito! Come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli? Ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato debole, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,70 e 21,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,20 e 22,50. L'orzo con peso specifico 60-63 tra 19,50 e 20 euro e la soia tra 49,20 e 49,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5,40 euro e la soia di 14,20 il quintale. Passando ai bovini e macello, si rileva una leggera ripresa delle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,50 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,50 e 2,20. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma quotazioni rivalutative e l'ultimo andamento accerta i blubelga maschi pagati tra 5,80 e 6,30 euro al chilo IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,30 e 1,60 e i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa e il valore della tonzola di 30 kg franco partenza si fissa tra 3,04 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati tra 1,35 il chilo. Infine nel settore degli avicunicoli si segnalano cenni di stabilità con i poli a terra pagati tra 0,99 e 1,01 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,35 e 2,39, i tacchini maschi tra 1,29 e 1,33, le faraone tra 2,29 e 2,39, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,03 e 2,09. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Si è appena conclusa la seconda decade di febbraio, di cui ricordiamo innanzitutto l'irruzione fredda di metà mese, con bora forte sulla costa, oltre i 100 km all'ora a Trieste, e con temperature che sono scese sotto zero anche sulla costa per la prima volta in quest'inverno. Picchi minimi attorno ai meno 7 in pianura, meno 10 in montagna, con punti attorno ai meno 20 a Fusine e meno 17 a Sappada. Temperature che hanno pareggiato quelle molto miti di inizio mese. Il tutto accompagnato da cielo sereno e aria secca. Dopo il freddo, durato pochi giorni, sono riprese deboli correnti occidentali, che però non hanno portato precipitazioni significative. In questi giorni il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo si va estendendo verso il nord Europa con aree decisamente mite in quota e accumulo di aria umida nei bassi strati. Fino a domani, dalla costa alle valli alpine e prealpine, avremo cielo nuvoloso per nubi basse, con più schiarite a ovest. Sulle Alpi, sulle zone verso il Cadore e verso il Tarvisiano, poco nuvoloso. Sopra i 1800 metri oggi e oltre i 1300 metri domani avremo cielo sereno. Martedì giungerà aria più secca da nord-est e avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con residuo nuvolosità al mattino su bassa pianura e costa, nebbia di notte al mattino su pianura e costa, in montagna temperature molto miti per il periodo. Mercoledì cielo sereno e avremo di nuovo temperature massime decisamente alte, con punte fino a 20 gradi in pianura. Nei giorni successivi l'anticiclone sembra rimanere sul Mediterraneo e sull'Italia, mantenendo bel tempo, ma con il rischio di qualche nebbia in pianura sulla costa di notte al mattino. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Vinars cecal promette al manten, ovvero ciò che venerdì promette poi lo mantiene, verosimilmente in argomento meteorologico. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.